Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. E torniamo in diretta dopo il GR di Radio Popolare, sono le 7:47 minuti, 31 gennaio, quindi domani, primo febbraio, no? È un giovedì di forza, infatti tra letteratura e musica avremo una serata al binario 69 che vedrà appunto questo che può essere una commistione assolutamente interessante, la storicità di Thelonious Monk nell'ispirazione di Domenico Calieri con una formazione di cui ci parlerà Domenico stesso. Sono riuscito a intercettare brani di intervista che ho tenuto qualche giorno fa col chitarrista siciliano. In partenza, per quanto riguarda la serata, avremo la presentazione dell'ultimo lavoro di Simona Cantelmi, Io non mi trucco. Simona Cantelmi, giornalista scrittrice che già abbiamo conosciuto anche sulle frequenze di Radio Città Fujiko, impegnata in un lavoro di quotidianità e amicizia diversamente normale, come spesso io definisco determinate situazioni dove le realtà di incontro tra queste donne protagoniste portano oltre che un motivo di mutua conversazione e concreta presenza anche una quotidianità e un motivo ulteriore di progresso nel loro percorso di vita. Insomma, una struttura all'interno del romanzo dove le protagoniste vengono presentate e poi portate in una narrazione di incontro e intersezione tra di loro. Insomma, questa sera vi sarà la presentazione, vi sarà anche, ma ve ne parlerò tra poco magari, intanto che il nostro Last Minute va tra musica e presentazione letteraria, vi saranno anche lettura prima del concerto di Domenico Calieri. Io metto a disposizione il lavoro di Simona Cantelmi, Io non mi trucco, per voi ascoltatrici e ascoltatori, e siccome si parla di trucco e di letteratura, beh, un grande lavoro, Il giro del mondo in 80 giorni, Philly the Fog, convinto un ispettore che fosse un pericoloso delinquente intento a scappare per inseguirlo. Come faceva? Beh, si truccava, si travestiva, no? È venuto in mente così, tra letteratura e trucco mi è venuto in mente questo ispettore che infatti ripeteva spesso: è un trucco di chi? Come si chiamava questo protagonista nel giro del mondo in 80 giorni? Beh, sappiamo di Philly the Fog, intento in questa impresa. Un ispettore vede invece in lui un pericoloso delinquente, cerca di inseguirlo per riuscire a tenere le sue tracce, adotta dei travestimenti ma soprattutto dei trucchi e aggiunge: è un trucco di... Beh, aspetto la risposta al 333-180-9494. E intanto Domenico Calieri, per presentare il suo lavoro con l'ispirazione da Thelonious Monk, ascoltiamo le sue parole, poi si torna in diretta. Una rilettura del repertorio di Monk, di Thelonious Monk, in una chiave che posso dire, grazie all'assenza del pianoforte, alla presenza della chitarra elettrica, era una chiave un pochino più grintosa, un po' più rock and roll, se possiamo usare questo termine, anche perché la musica di Monk è veramente fra le più plasmabili in assoluto, si può presentare in tante salse diverse, in tanti generi diversi, pur rispettando fedelmente, più o meno fedelmente, diciamo, la materia prima, cioè l'armonia, i temi e le melodie, insomma. Tra l'altro, nelle tue ricerche musicali il linguaggio rock and roll, per così dire, è presente molto. È presente praticamente dall'inizio, è sempre stato un po' un ibrido. La chitarra elettrica ha un suono che è una sorta di ibridazione di differenti sonorità. Quando non è estremizzata, quando non è stilisticamente più confinata a un settore, sia l'heavy metal sia il jazz stesso tradizionale, nel mio caso io ho sempre cercato di mischiare un po' le sonorità, pur rimanendo fedele alla grammatica jazzistica, ma non ho mai disdegnato di premere il pedale sull'acceleratore, in un certo senso, sull'overdrive, ecco, sulle distorsioni, anche fin dai tempi dei gruppi di Rava, già parliamo degli anni 90, insomma, le esperienze di Bass & Sphere, per cui per me la chitarra elettrica non è solamente quel suono pulito, dolce, delicato, eccetera, ma anche qualcosa che viene dal rock. Mi hai messo in mente, intanto grazie Jarno, ti do il buongiorno, ci siamo visti ieri nella presentazione di Lumière, grazie intanto, non è la risposta esatta ma quasi quasi, perché aver citato Jean Passepartout sapete, Jean Passepartout è il maggiordomo, non è l'ispettore che insegue Phil the Fog. Però mi hai fatto tornare in mente, scusa il sorriso, perché è un lavoro che lessi da bambino e mi appassionò molto. E Jean Passepartout è il maggiordomo. E invece l'ispettore, famoso per il trucco di, poi aggiungeva il suo nome, appunto. Bravo! È un trucco di Fix! Quindi domani dalle ore 8 la serata sarà così distribuita al binario 69, presentazione letteraria di Io non mi trucco, a seguire il concerto. Stiamo ascoltando una struttura di Domenico Caliri da Camera Lirica, un suo lavoro che tra l'altro è l'anagramma dello stesso nome di Domenico, Camera Lirica Domenico Caliri, è una struttura modulare in questo caso, come vi ho già detto, in una ricerca profonda più sul versante zappiano in questo caso, ma Domenico Caliri ha un aspetto molto eterogeneo di presentazione musicale, per cui avremo in chiusura anche un'altra parte musicale. Perché non presento il lavoro? Lo presento solo così, con lo ascolterò domani sera con grande piacere, perché il disco non è ancora uscito, anzi sarà a breve presente per quanto riguarda il lavoro di ispirazione monchiana su Thelonious Monk. E quindi andiamo verso la conclusione ricordando il concerto Domenico Caliri Thelonious Monk, la presentazione del lavoro Io non mi trucco di Simona Cantelmi. Jarno, tu chiaramente sei graditissimo ospite al binario 69, e anche voi ascoltatrici e ascoltatori di Radio Città Fujiko, mattiniere e mattiniere. Si conclude la serata con DJ set, quindi insomma una bella serata piena di giovedì, domani, 1° febbraio. Chi sarà con te sul palcoscenico in formazione? Ci sono due ottimi sassofonisti, Canio Coscia sax tenore e Federico Califano, detto il Califfo, al sax alto. Poi c'è Filippo Cassanelli a contrabbasso e Francesco, detto Ciccio Benizio, alla batteria. Posso dire che questo, molto velocemente, questo progetto è nato casualmente da un'iniziativa del conservatorio risalente a, credo, al 2021. L'idea era in sostanza questa, faccio breve: ogni docente avrebbe potuto formare un gruppo con i migliori studenti per una rassegna presso una fondazione Zucchelli di Bologna. In quel caso io formai un quartetto pensando a un omaggio su Monk. Non c'era ancora Canio Coscia, che comunque ha frequentato il conservatorio diversi anni fa, ma lo fece appunto con un altro bassista, con Federico Califano e con Benizio, questo nel 2021. Poi da lì l'idea ci è piaciuta, abbiamo sviluppato la cosa, abbiamo allargato la formazione a quintetto e abbiamo tenuto più o meno costantemente un'attività concertistica, e quest'anno a breve metteremo tutto su disco, perché poi nel frattempo io ho aggiunto degli arrangiamenti e così ho delineato un po' più in maniera più precisa lo stile del repertorio, e quindi diciamo vicini andare in studio di incisione. Quindi l'arrivo di un disco. Io ti ringrazio tantissimo per queste anticipazioni e per la presentazione del concerto. Ci vediamo giovedì 1 febbraio al Binario e ti auguro una buona giornata. Grazie. Anche a te, anche a voi. Ciao, ciao. Com'è diverso, ho portato due brani, uno dal disco Camera Lirica Baccanale, quello che abbiamo ascoltato tra un motivo di conversazione in presentazione del concerto di domani di Domenico, e poi My Mind on a Surf da un lavoro precedente. Sentite come questi lavori siano diversi ma uniti sempre da un grande senso di ricerca e di curiosità. Giovedì, domani quindi al Binario 69, a tra poco, perché inizia ufficialmente il Voltiamo Pagina Libri a Colazione sui 103.1. Mi raccomando, 333-180-9494. Dopo il quiz, ovviamente, con risposta esatta, avrete una delle pubblicazioni presentate da me o da Silvia Albertazzi per arricchire la vostra biblioteca sotto la parte Radio Città Fujiko Voltiamo Pagina. A tra poco.